Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori. Rosso un fiore in noi è fiorito, è una fede nata in cuore. Sei molto credibile. Noi non siamo più nell'officina, entro terra, nei campi, al mar. La plebe è sempre all'oprachina, è ideale in cui sperare. Vabbè. Annunziate la notizia per cui io inizio a cantare, dai, così. Dai, Carlo Alberto. Uno in meno, cioè. No, come uno in meno, ragazzi. Come uno in meno. Io avevo preparato l'Internazionale Comunista cantata dallo straordinario coro dell'Armata Rossa della gloriosa Unione Sovietica. Dai retta a me. Quelli è meglio lasciarli a casa loro. L'ho cantata io. Uno in meno. Vabbè. Volendo essere, come dire, perfido, continua la vendemmia 2016. Visto che l'abbiamo detto tutte, mi ci sono messo. Sì, oggi mi sento buono. In questo numero speciale del vostro appuntamento del sabato con l'inizio frizzante, con il fine settimana, cioè i conti della Belva, come arrabbiarsi, anche se non avete trovato fino a questo momento delle buone ragioni per arrabbiarsi, ma siamo in diretta dal forum agenti.it qui alla Fiera di Milano e speriamo di riuscire ad attirare la loro attenzione in qualche misura, perché sennò non avrebbe senso che ci sei già qua. Riuscito, vedi, che cantando così praticamente ho visto la security, arrivare la security con la pistola alla mano, tutto il quartiere che sta arrivando praticamente. Allora, detto tutto questo, allora ragazzi, noi dobbiamo essere solidali con gli agenti commerci. Dovete sapere che sono uno dei grandi investitori fissi della nostra radio e quindi io le sono grato come conduttore, esisto anche grazie a voi, non ci abbandonate, questa è la cosa che aggiungo naturalmente con la voce rotta. E attenzione, perché la seconda parte della trasmissione oggi in qualche misura, anzi direttamente, vi riguarda, perché oggi, tanto come al solito per annunciare i nostri temi, oltre all'inizio sui fatti della settimana con Mario Seminerio, la solita rubrica, cari ascoltatori, io vi chiedo di telefonare all'800 24 00 24, intanto perché nella prima parte, se siete detentori di obbligazioni subordinate del Monte dei Paschi di Siena, è venuto il momento in cui dovete prendere una decisione: vi convertite o non vi convertite? Scendete da cavallo come San Paolo? Prima pentitevi, poi convertitevi. Per pentirvi ne hanno avuto di però tempo. Adesso dovete dirci se convertite in equity i vostri titoli. Cosa vi spinge a farlo? Che paura avete? Noi tenteremo di ricostruire logicamente qual è il margine di possibile convenienza. Cosa vuol dire questo piano che oramai parte, di cui avremo poi particolari sulle conversioni proprio praticamente poche ore prima del voto, il referendum che c'è il prossimo fine settimana. Quindi la prima parte della trasmissione sarà su MPS e non solo su MPS, però innanzitutto su MPS. Ma dopo, nella seconda parte, cari agenti, noi parliamo del decreto fiscale, delle novità fiscali che arrivano e soprattutto di quelle che riguardano i poveretti come me, partite IVA, eccetera, eccetera. Quindi ci sono temi che riguardano anche voi, vedremo in che cosa consiste questa nuova Equitalia, è così nuova e così disarmata? Questo è il mio commento, e dopodiché capiremo che cosa consiste i nuovi obblighi di spesometro, comunicazioni obbligatorie e tante tante altre cose. Però nella seconda parte della trasmissione parliamo essenzialmente delle novità fiscali connesse alla manovra. Intanto, cari compari che siete qui non in studio ma in fiera, cioè Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè, Renato Cifarelli ci raggiunge tra poco. Che altro vogliamo aggiungere oltre a quello di cui parliamo? No, io volevo segnalare questo episodio di questo studente dell'Istituto Tecnico Industriale di Moncalieri, l'ITIS Pininfarina, che è stato sospeso in quanto recidivo perché praticamente realizzava un arbitraggio sul prezzo delle merendine. Cioè lui arrivava a scuola e spacciava queste merendine, diciamo segando letteralmente il prezzo sia dai distributori automatici che del bar dell'istituto, e ci faceva un profitto. Per cui è stato colto con le merendine nel sacco, letteralmente nello zaino. L'anno scorso era stato bocciato, quest'anno sospeso. Adesso è in corso una procedura di rieducazione, mi dicono, sì, nei campi di lavoro. E la procedura di rieducazione consiste nell'iscrizione obbligatoria a Confindustria. Esatto. Pensavo a uno stage. Quella è una a bella Cuba. Punizione. Ma io penso che a Cuba sono le merendine, se la cavano in benissimo. Allora, no, ma comunque questa cosa va, come dire, approfondita, perché il preside ha fatto presente i problemi, come dire, igienico-sanitari, del tipo non sappiamo da dove provengono le merendine. Non è del tutto sbagliato il principio, no? Però perché ti rendi conto che era lo stesso argomento che eccepivano coloro, sì, che avevano vinto in concessione le gare in catering delle refezioni pubbliche a Torino contro il diritto delle famiglie di portare i pasti a casa, e il giudice ha detto per favore. Ma è anche lo stesso argomento contro la ristorazione, diciamo, familiare, no? Esatto. Quello delle app. Esatto. Quindi a volte succede che ci sono effettivamente problemi, come del resto nella ristorazione regolare, regolata, altre no. Ma a me la cosa che mi fa sorridere è che praticamente sto ragazzo, avendo stranamente, perché un giovane italiano che ha senso degli affari, del commercio, e che riesce bisogna a capire bruciarlo, quando si può fare arbitraggio sui prezzi per abbattere i margini di profitto grassi altrui, e chiaramente va rieducato. Per cui questo è un esperimento sociale molto interessante. Quello che posso dirti è che, avendolo ripetuto più volte nelle trasmissioni di questa settimana, il 99% dei messaggi che arrivavano è sbagliate, perché è giusto punirlo. È giusto punirlo. Quindi, immagino. Milieu sociale che è favorevole. Immagino. Anche secondo me è giusto punirlo, perché doveva vendere merendine bio. Esatto. E quindi dare un segnale chiaro di riposizionamento. Io invece anch'io ho un esempio bellissimo di rieducazione al mercato. Siccome il mercato delle azioni delle banche popolari in Italia non si ostina a pretendere di avere un prezzo, diciamo, stabilito dall'incrocio fra domanda e offerta, giustamente i nostri regolatori e gli amministratori delle più sagge banche popolari non quotate ha detto no, qui non possiamo come dire, accettare che la gente si aspetti di avere una azione liquida. Allora, in seguito all'indicazione della Consob, verrà creato, sembra, questo mercato in sede multilaterale di negoziazione, una specie di mercato finto in cui si può solo comprare. Esatto. E se vuoi vendere, se vuoi vendere al massimo 5-10% per un anno. Se poi non vendi per un altro anno, un altro 5-10%. Ma c'è già regolamento di questo mercato? Sono usciti commenti sui giorni scorsi. Sono 10 miliardi circa di azioni non quotate in mano le principali banche, in mano alla gente. E diciamo, se devo valutare a prezzo di mercato, valgono forse un terzo, se sono i multipli, diciamo, di i banche. Quali sono? Molto più, secondo me, molto più sane di queste di cui sta parlando. Bene, allora, se a tassi del 10% di riduzione annuale, come sembra sia l'idea, dobbiamo aspettare a questo punto quanto? 7 anni prima di mandare in negoziazione. Ma questo è giusto titolo? Perché non bisogna orientarsi al breve periodo, lo dicono tutti. Capitale basta paziente. Con questo short-termismo. Capitale giusto, paziente. No? Resuscitiamo Fidel Castro e affidiamogli la gestione del mercatino delle banche popolari. Esatto, esatto. Io posso dirvi fuori dai denti, in quanto candidato al martirio nel gruppo Sole 24, che considero scandaloso che la Consob partecipi a cose di questo genere. Poveri. Vabbè. Lo considero scandaloso, cioè è la negazione del motivo per cui dovrebbe esistere un regolatore. Questa è la mia idea, fatemi pure a pezzi, e adesso torniamo tra un minuto. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qui tornati alla Fiera degli Agenti.it, alla Fiera di Milano, e parte la rubrichetta con la sigla. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qua e vediamo che cosa è successo questa settimana. Intanto la notizia è che siamo riusciti a ripristinare il collegamento con i nostri messaggi. Ascoltatori fedelissimi, esatto, con gli sms. Esatto. Dai, diamo la prova. Che ma ci apprezzano. Sì, per esempio qui arriva un sms che ci fa un grande Questo è un tifoso della Boldrini. No, nell'apprezzare i commenti salaci che noi facciamo agli avvenimenti internazionali, un ascoltatore giustamente apprezza il nostro stile, la nostra compassata e saggia equilibrio, dicendo, virgolette, che grandissimi stronzi che sì, siete. Ce l'ha, e noi ringraziamo, perché effettivamente come dire, missione, questo, compiuta. Missione compiuta. Però compiuta. Restate sintonizzati, perché ce n'è ancora. Allora, caro Mario, da che cosa vogliamo cominciare? Questa settimana non ci sono dati macro. Non ci sono dati macro. Se volete, vi commento la stima finale del PIL tedesco del terzo trimestre. No, perché o la quella, facciamo commentare al sottosegretario Sandro Gozzi, che mi dicono è un esperto di lettura dei dati. Perché su quello devi sapere, ti dovresti ricordare che in scaletta abbiamo alle 11:30 il nostro amico Udo Gumpel, cioè un pezzo di Germania importata che noi difendiamo con le mitragliatrici. No, diciamo che nelle more dell'attesa, il primo dicembre la stima finale del PIL italiano del terzo trimestre, quando si scoprirà quali sono state le componenti che hanno fatto la crescita, e dopodiché andiamo al giorno del giudizio, che è il 4 dicembre, e dal giorno dopo tutti i nostri problemi saranno magicamente ancora lì. Quindi quello sarà un ottimo esercizio. Oppure accresciuti, se posso. O forse accresciuti. Ecco, questa è la dichiarazione di voto del professor Carnevale Maffè. No, non ci credo neanche morto. Non fate dichiarazioni noi di voto. Noi non facciamo dichiarazioni di voto. Facciamo. Anche perché io offrite un altro motivo per cacciarmi. Assolutamente. Io voto Antonio La Tripla. Io voto forse, diciamo. Né sì né no, ma forse. Esatto. Quindi, che dire, non abbiamo dati macro questa settimana. Intanto però abbiamo un centro studio di Confindustria che con i dati di produzione industriale stimata eccetera eccetera, insomma l'attesa non è di questo ultimo trimestre, per così dire, sfolgorante, per così dire. Esatto. Però vedremo. Esatto. Ecco, no, questo... però diciamo una ricordiamo la stima del PIL italiano del quarto trimestre, che ovviamente è un work in progress, ci sono aggiornamenti, è più 0,1. Allee. Ve lo dico perché così alla fine magari le cose andranno meglio strada facendo. Il mondo è in ginocchio di fronte alla nostra prestazione. Ma soprattutto aspettiamo l'impulso espansivo di Trump, che potrà aiutare anche l'Italia probabilmente a crescere, magari di qualche 0,0 qualcosa, così potremo anche dire che abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Quindi invece no, io volevo segnalare una cosa, visto che siamo, come dire, in modalità non riempitivo ma non dati di stretta attualità, che mi ha fatto morire dal ridere un post che ho letto sul Fatto Quotidiano qualche giorno fa, sul sito del Fatto Quotidiano, un post di un economista, quindi persone serie, che praticamente criticava tutte le ricette per uscire dall'euro che sono state avanzate sinora, dicendo che praticamente voi sbagliate candeggio. Lui ha detto che lui nel 2013 ha sottoposto la sua idea riservatamente ad alcune figure importanti e primarie che gli hanno dato appoggio, però non può divulgare in che cosa consiste questa idea, perché altrimenti l'effetto sorpresa sarebbe annullato. Quindi, come dire, mi colpisce il fatto che gli esperti no euro, quelli che vi spiegano come fare a uscire dall'euro, diciamo, hanno la ricetta segreta, che è come quella della Coca-Cola. Quindi ognuno è più bravo dell'altro, ognuno ce l'ha più lungo dell'altro, ma non intendono farselo misurare. Questo dicevo io. Il punto è che loro però dicono ai loro seguaci, visto che si tratta di un rapporto fideistico, che non bisogna svelare il segreto al nemico, perché il piano c'è. Naturalmente, però, poi si vedrà solo quando si è vinto e lo si sta facendo. Questa esatto. È la sintesi vera. No, ma poi usciranno nel corso di una notte di luna piena, penso. Per cui alla fine lì ululando si scoprirà. Ululando, sì, avranno. Allora, io volevo rapidamente trattenermi su un fatto che è avvenuto ieri e che considero di grande rilevanza. Cioè, sto parlando esattamente della sentenza della Corte Costituzionale che è intervenuta accogliendo in vasta misura, cioè diciamo all'80%, le richieste che erano state avanzate dalla Regione Veneto contro la legge delega Madia. La legge delega Madia è uno dei pilastri fondamentali che reggono l'intera pianta multiforme delle riforme del governo Renzi, perché è la riforma della pubblica amministrazione, quindi stiamo parlando di decine di decreti delegati. Che cosa aveva fatto il Veneto? Il Veneto aveva impugnato alcuni di questi decreti delegati in materie fondamentali nella serie di tutti, perché stiamo parlando di quello sulle partecipate pubbliche, sull'intera organizzazione del lavoro della pubblica amministrazione, sull'intero riordino della dirigenza pubblica e sulle metriche di produttività da affidare sia ai dirigenti con contratti a tempo quadriennale e poi in scadenza fino a poter perdere il lavoro, e i contratti di e la metrica di produttività per tutti i dipendenti pubblici. Ecco, il Veneto aveva detto, su queste materie, che anche secondo la Costituzione attuale sono materie nelle quali lo Stato può intervenire, ma a patto che per la cointeressenza molto stretta di interessi con le regioni per esempio, come si fa a intervenire sulla nomina dei dirigenti sanitari, visto che la sanità oggi è di competenza regionale? Il Veneto aveva detto, la legge delega prevede solo che ci sia un passaggio di mera consultazione nella conferenza Stato-Regioni, un mero parere non vincolante, e poi il governo fa come vuole, e non può, perché invece c'è bisogno di una intesa piena in conferenza Stato-Regioni. La Corte Costituzionale ha dato ragione al Veneto, sì. E dando ragione al Veneto, il problema che si pone è quello che i tempi adesso per riscrivere la legge delega su questi punti e per riapprovare scaduta la delega, praticamente per di più dei decreti che sono venuti meno, sono 4, praticamente non c'è, e allora bisogna decidere cosa fare. La questione è diventata, ma la Corte Costituzionale interviene perché il testo vigente della Costituzione è vigente fino a una settimana, fino alla settimana prossima, perché poi gli italiani lo possono cambiare, sì, oppure no? Ecco, sappiate, cari ascoltatori, che in realtà la Corte Costituzionale interviene stabilendo, e questo lo fa con un atto politico, parliamoci chiaro, un principio che vale anche se, come è giusto e legittimo, magari voi che siete ascolto votate sì. Perché cosa capita? Che con il testo di riforma sottoposto al voto degli italiani domenica 4 di dicembre, è vero che alcune materie si spostano drasticamente e tornano alla competenza statale, quello delle grandi reti energetiche, delle telecomunicazioni, delle opere infrastrutturali, porti, aeroporti, rete autostradali, quello diventa competenza dello Stato, mentre oggi è competenza concorrente. Però le materie sulle quali insiste la pronunzia di costituzionalità da parte della Corte, cioè quelli dell'organizzazione del lavoro, dei dipendenti, della dirigenza pubblica, delle partecipate pubbliche, principi generali in ordine a che cos'è un servizio pubblico, quelli anche nel nuovo testo restano materie che non vengono spostate solo allo Stato, sono materie in cui resterà la possibilità per il governo e lo Stato di intervenire unilateralmente solo invocando la cosa nuova che si chiama clausola di supremazia, sì. Ma anche in quel caso le regioni potranno impugnare, la Corte dovrà disciplinare con una giurisprudenza nuova cosa pensa della clausola di supremazia, ma questa nuova giurisprudenza costituzionale non potrà che partire dall'evoluzione della base acquisita, cioè quella delle molte sentenze richiamate dalla decisione della Corte ieri, che dicono su queste materie lo Stato deve ispirarsi e realizzare un principio, si chiama leale collaborazione con, sì, le regioni. Quindi la sentenza della Corte di ieri è fondamentale, perché dice allo Stato e dice a coloro che vi stanno ripetendo in televisione tutti i giorni: volete voi 20 sanità diverse? Il sottinteso è: se votate sì la omologhiamo. Non è così in realtà, perché anche con la nuova Costituzione sulla sanità, se lo Stato, se il governo centrale interviene unilateralmente e uno impugna e dice il governo sta nominandomi dirigenti sanitari per mandare peggio la mia sanità rispetto che meglio, quella veneta, quella lombarda che vanno meglio delle altre, la Corte Costituzionale interviene e dice no, tu non è che puoi interpretare il principio di supremazia come vuoi, lo devi giustificare. Quindi attenzione, perché questa che sembra una materia, diciamo così, di dottrina costituzionale, è un potentissimo segnale politico. Io non avrei scommesso sul fatto che la Corte Costituzionale arrivasse a sentenza prima, e ma anche la maggior parte degli esperti che ho sentito, visto che hanno rinviato il giudizio sull'Italicum, esatto, dopo il referendum, pensa che c'è qualcuno che mi ha detto, in ambito di diritto costituzionale è un trade-off. Hanno detto: bene, noi non ci pronunciamo sulla legge elettorale e aspettiamo che si pronuncino gli italiani, sì, sì, però in cambio su, sì, questa questione di principio, cioè l'impugnativa della regione Veneto sui poteri del governo e non sulla leale collaborazione, lo diremo prima del voto. Comunque è un grande segnale, ecco, non so come la pensate voi, ma no, no, mi ha colpito, approfondendo ieri, ho scritto sul Messaggero di questo, che in realtà vale anche per il dopo, anche se vince, sì, sì, cioè non, sì, è che, sì, diventa un giorno in cui il governo potrà fare quello che vuole in nome comunque, della clausola di comunque supremazia. Io ribadisco, cioè senza entrare in particolari meriti eccetera, ieri c'era un articolo sulla voce.info relativo, sì, all'autonomia, alle regioni a statuto speciale, che veramente, bravo, con questa riforma a doppia mandata sono ancora, bravo, più speciali nella specialità del loro statuto, sì, questo, e proprio questi è un altro sono punto per me degli stati, quindi avremo la confederazione italiana praticamente. Questo mi fa mi colpisce moltissimo, senza avere, diciamo, la grandezza di Rosmini, no, beh, esatto, esatto, per cui vedo che c'è un pensoso Carlo Alberto che qui scuote la testa. Sì, perché io invece trovo giustissimo che su certi processi che sono cambiati in termini organizzativi si torni a una centralizzazione, è una questione di, secondo me, di processi e di organizzazione e di tecnologie. Ricordo, visto che siete così federalisti, che invece sui principi... Ah, io lo sono, non posso dire... No, no, va benissimo, per carità, no, è giusto che come dire, ci sia il principio di sussidiarietà, ma laddove non ci sono economie di scala, faccio un esempio che ovviamente mi sta molto a cuore, che è il tema delle banche dati, delle strutture dati, che oggi sono iperframmentate, perché abbiamo 8.000 comuni con 8.000 benissimo. Allora, per fortuna su quel punto invece la riforma costituzionale accentra, perché ed è la base invece cui dovremmo arrivare a un accentramento di natura europeo se vogliamo un welfare efficiente. Quindi basta dirlo, no, però, ma e io lo dico. No, ma il problema è che se invece, perdonami, si dice agli italiani tutte le sere: non volete voi vero 20 sanità e mi fai vedere il malato di cancro, che se io ti voto a te pare che abbiamo vinto il cancro, e nel frattempo fai passare invece la norma per cui commissari delle regioni rientro 4 diventano i presidenti delle regioni Civi De Luca, mentre in Campania l'unico che l'ha raddrizzata è stato un generale dei carabinieri, per restare alla storia storica. Allora perdonami, non mi confondere i piani, comunque, quelli come me hanno l'obbligo di dire Carlo Alberto, cioè, allora io sono federalista nella misura in cui si arriva alla completa autonomia fiscale finanziaria, cioè tu regione sei padrona del tuo destino finanziario e fiscale, ma nella misura in cui la pianti di fare l'idrovora di denaro centrale, che è anche mio, che vivo in una, anzi due regioni a statuto ordinario molto ricche, eccetera eccetera. Per cui, cioè, il federalismo, il centralismo che deriva dalla centralizzazione delle banche dati e dall'infrastruttura digitale telematica, te lo sposo appieno. Però qui in realtà parliamo di federalismo fiscale, cioè qui si va, occorre correggere le follie del titolo quinto, ma auspicabilmente evitando di introdurre di nuove, ancora più centrifughe, ancora più entropiche. Sottoscrivo la cioè, questo è il problema. Seminario, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta. E io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate, non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi, dovete dire: sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Ecco, si è adatta bestialmente, direi, alla condizione dell'azionista obbligazionista MPS, questo stacchetto che vi abbiamo riservato e che utilizziamo di volta in volta per porvi delle domande. La domanda che vi poniamo, non so se qualcuno ci telefonerà per dirlo, però rivolgendosi proprio a coloro che hanno obbligazioni subordinate di MPS, che fate alla fine? Vi convertite? Vi convertite in equity? Accettate questa impostazione? È un piano, quello di MPS, che ha particolari novità dal punto di vista istituzionale, evolutivo, storico italiano. Non c'era mai stato il piano di una banca in difficoltà, per ragioni su cui non torniamo, perché le sapete, sapete come la pensiamo sui lunghi anni di cui è figlia la crisi MPS, il ruolo della politica, bla bla bla bla, la dormita dei regolatori e bla bla bla bla. Detto tutto questo, un piano di una banca in queste condizioni, che mette nero su bianco che dipende da cosa sceglieranno gli elettori a un referendum che cosa avverrà, e dopodiché accetta quello che forse andava abbracciato, come dicevamo noi fin dall'inizio un anno fa e più, l'idea di proporre uno swap, una conversione tra obbligazioni e capitale, e subordina a questo il fatto che poi ci sia davvero un investor anchor, come si dice, cioè un cavaliere bianco che arriva e mette quello che resta del più del capitale da mettere sui 5 miliardi. La speranza della banca è di farne almeno uno, si è capito in realtà, da conversione di miliardi, dovevano essere quasi due. La valutazione è che comunque vada, anche se vince il sì al referendum, difficile trovare qualcuno che metta più di un miliardo, due miliardi e così via. Altrimenti si dice, signori, si va alla risoluzione della banca. Ieri nell'assemblea, l'altro ieri, per la prima volta in una risposta scritta a un azionista da parte della banca, c'è stata anche l'indicazione del totale, no? Del 13 miliardi di valutazione. a quel punto 13 miliardi è, io penso di aver capito, è l'8% esatto. del totale delle passività della banca, cioè per cui, la somma dell'equity, esatto, la somma del... la somma sì, di tutte le passività che sono bailinabili, come esatto. direbbero a Genova, equity, diciamo. E tutti i sub che a quel punto saltano, per essere chiari, esatto. sono esattamente sì, quella sì. cosa lì sì, sì. E quindi fatecelo sapere se avete deciso di convertire. Possiamo riassumere però, giusto, che la decisione qual è? La decisione è molto semplice: la conversione di debito in equity, mi permetto di dirlo perché se ti ricordi l'avevo scritto il piano so. JP Morgan, ma che JP Morgan, dai, l'avevo scritto un anno fa sul Sole 24 Ore. Convertire cosa vuol dire? Credere, obbedire, che, combattere. No. Ma parte credere, diciamo, un atto di fede che la banca possa generare utili in futuro tali da come dire, distribuire dividendi tali da remunerare il capitale però, in maniera esatto, superiore. Tu lo a sai qual è la base di redditività illustrata dei piani di MPS attuali. Infatti posso dire che il problema è quello. Oh. Cogliamo questo grande shock, questo grande trauma di una grande banca italiana che pone finalmente il capitalismo italiano e il risparmiatore italiano di fronte a una grande sfida educativa, a capire come funziona una banca, come funziona il capitale, come funziona il rischio, no? Togliamo finalmente questa patina di paternalismo finanziario per cui il risparmiatore va protetto e garantito. No, il risparmiatore deve investire. Hai sì. appena illustrato, prima dell'interruzione, una grande iniziativa in cui ci sono tutti i regolatori italiani al sistema bancario certo. Per dire a chi ha titoli liquidi, ve li teniamo in liquidi. Quello è diseducativo, non... mentre questa quello è, una cosa molto... è ciò che pensa il sistema italiano. E invece no, però posso però, dire, quindi... bisogna decidere se credete che i flussi di cassa futuri derivati dai dividendi compensano diciamo il valore di scambio di questa obbligazione che diventa azione. Se invece pensate dall'altra parte di rischiare di perdere, ovvero che sul principio del dilemma del prigioniero, sapete che abbiamo grandi teorici della teoria dei giochi su Twitter che ci spiegano esattamente sì, come esatto, funziona sì, sì. Assieme a molte altre allora, cose allora cioè, converti tu che io non converto, almeno in logica di opportunismo, sì, di crepiamo free tutti diciamo. Esattamente il rischio è effettivamente quello poi di finire sotto la procedura di risoluzione, cioè di perdere tutto. Beh, questo è l'altro tema, quindi è un bel esempio di teoria dei giochi vera che dice se non converti il rischio che da opportunista no, tu venga coinvolto in un processo che distrugge tutto, se converti devi fare un atto di fede sulla redditività. È chiaro che il vero problema, scusate, non è il bail-in, che è una regola che abbiamo stabilito 4 anni fa e che sta sul tavolo dei regolatori europei da e tempo e che non verrà emendato, no, che, no, che non viene emendato, che l'Unione Europea non intende emendare, toglietevelo dalla testa, esatto. Okay? Oppure credere che la redditività delle banche italiane migliori possa recuperare in futuro. Io sì, è chiaro che mi auguro questa seconda cosa perché abbiamo bisogno certo. di un sistema bancario solido. Poi, ma il problema è quello, scusate, sì. non è dire sì o no a questa cosa, è credere che esista un piano di redditività sostenibile nelle banche italiane nei prossimi anni. Ma questo no. è il problema. Ricordiamo alcune cose. Uno, che nelle banche, per chi ha quei titoli, che crede esatto. al piano di redditività di MPS, però innanzitutto. Alcune cose, il piano industriale di MPS è molto ambizioso, giusto? Io lo definisco così, altri modi non no, altri termini non uso, certo. avendo visto i numeri chi è sicuramente capire, molto capisco. Ambizioso. Dopodiché ci sono ovviamente molti obbligazionisti subordinati, questo è intuitivo, che si trovano in portafoglio qualcosa che, di cui non conoscevano esattamente la natura e la no. rischiosità, ma questo anche questo è scontato. Abbiamo detto. E dopodiché vediamo. Cioè, poi io trovo corretto che la banca, i vertici della banca abbiano detto che non c'è un piano B, perché quando si persegue un solo piano industriale. Sì, ma quelli sono voci di corridoio, eccetera, però io resto a quello che ha detto Morelli, che ha detto non c'è nessun piano B, quindi a me non scandalizza questa cosa, cioè bisogna cercare di perseguire questo e vediamo come va a finire. Però, ripeto, non è facile, perché il piano industriale è molto ambizioso, però, ribadiamolo, Banca Monte Paschi ha una redditività operativa in questo momento, sì, non è decotta, a differenza, diciamolo perché sennò poi la gente equivoca, Banca Monte Paschi Siena ha una redditività operativa, quindi non è decotta come erano decotte le 4 banche che sono state risolte esattamente un anno fa. Dopodiché questo non vuol dire che la traversata nel deserto non sarà lunga e terribilmente faticosa ed impegnativa, con rischio che vada storto qualcosa. Vedete quanto sono oggettivo, mi faccio quasi tenerezza. Invece c'è da dire queste cose, perché si parla poco. È un tema importante con la redditività operativa, perché ti fa capire che essere azionista ha una sua logica, esatto. se credi che la banca abbia un posizionamento posizionamento competitivo, una fedeltà dei clienti, che posso dire che è stata eroica, perché francamente devo dire non mi aspettavo un grande attaccamento alla banca come invece ho visto in questi anni. Non sono qua a difendere nessuno, però la rabbia è una componente dell'attaccamento. può darsi la disperazione, non lo so, l'assenza di alternative, non lo oppure so, i figli, non so chi può dire. No, la verità è che dobbiamo spostare il tema da risanamento patrimoniale, che più o meno prima o presto si conclude, alla sostenibilità economica e finanziaria, e non saranno molte le banche in grado di reggere su questo fronte. Presto, certo. Si conclude, vediamo però, perché perdonatemi, del miliardo rotti, quasi due le stime che sia sul totale dei subordinati nelle mani dei retail, no scusami, il ragionamento da fare è rispetto al tasso di conversione che mi ha proposto, aspetta che è diverso, no, per le due famiglie di subordinati. Rispetto al tasso di conversione delle mie proposte, e che è generalmente favorevole, diciamolo pure, cioè certo, quanto si possa valutare, cioè incentivato. Però, uno, due, rispetto alle previsioni di reddito atteso per come sta messa la banca, le cose che abbiamo detto adesso. Tre, rispetto a che cosa mi capita se invece si va al bail-in, due punti, sì. Guardare ai criteri di rimborso pubblico precedente quattro banche. E guardate che io il più delle lettere che ho ricevuto di piccoli, sto parlando di piccolissimi, a me conviene aspettare, alla peggio vado all'ammissione del rimborso. Perdonatemi, ma questo è ciò che io ho ricevuto questa settimana. Il rimborso pubblico è tutto da dove salta fuori. Esatto. Cioè, voglio vedere un governo che rimborsa pubblicamente fa rimborsare al sistema bancario, al fondo interbancario. Attenzione, così quindi salva la forma e la sostanza e i conti delle banche. Noi dobbiamo sapere che molti professionisti stanno dicendo al piccolissimo risparmiatore che si trova in questa condizione: è un'incertezza, ma deve tenere conto che questa incertezza potrebbe avvenire proprio per la pressione che si svilupperebbe sul governo, e la risposta, certo, sarebbe nella direzione che ha appena detto Mario. Io ci sono un paio di messaggi, Oscar, che ci terrei a leggere. Allora, sì, il primo, poi abbiamo un ospite che sì, sì, arrivo subito. Giannino, dica per favore che JP Morgan e Mediobanca prendono 500 milioni di commissione per curare l'aumento di Montepaschi. Allora, siccome qui c'è la firma a questo SMS che è persona che io conosco e con cui ho lavorato 20 anni fa e che saluto, io vorrei dire ciao Tito, ti saluto, però vorrei anche dirti che, come sai, se l'operazione non va a buon fine, pare che non un euro sia dovuto agli advisor, e quindi diciamo non si tratta di un furto con destrezza. Possiamo discutere se i 488 milioni da pagare in caso di esito positivo sono tanti o sono pochi, ma il fatto che ci sia un esito binario del tipo che non si paga nulla non mi sembra, diciamo, una condizione irrealistica. Sarebbe sicuramente stato scandaloso se non ci fosse stato. Si fossero dovuti pagare a prescindere. Altro SMS, poi mi taccio e lasciamo gli ospiti. Il problema di MPS, di tutto il sistema italiano, non è tanto la redditività operativa, il focus sul core da banca commerciale, lasciando le speculazioni finanziarie a chi sa farle. MPS sta pagando quello. Caro ascoltatore, non è esattamente così, perché MPS sta pagando una pluriennale politica di credito fatta con i piedi, concessi fidi a soggetti che evidentemente non erano meritevoli e non avevano sufficiente merito di credito. Così. Vorrei dirle che non è che MPS ha speculato in derivati a Chicago o in qualche altro posto esotico e si è fatta male. I derivati li hanno messi in portafoglio una particolare dirigenza, sappiamo chi è stato, per coprire perdite su crediti e redditività insufficiente che si stava sviluppando. Quindi vi prego, parliamo di cose e di argomenti che riusciamo a padroneggiare, perché altrimenti facciamo il bar. Possiamo anche fare il bar, io personalmente non bevo, però se c'è da fare il cazzaro sono bravissimo anch'io. No, però hai ragionissimo anche a sottolineare questo. Adesso abbiamo traffico e però poi torniamo con Raffaele Zenti del Vaisolin per sapere loro che tipo di domande hanno dai risparmiatori che hanno titoli MPS in questi giorni decisivi. Tra un minuto. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Eccoci qui, Gerardo, in diretta da Forum Agenti.it, la Fiera di Milano, con i compari Conti della Belva, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Oscar Giannino. Ecco, collegato con noi per parlare del tema di questa parte della trasmissione, cioè cari azionisti, cari obbligazionisti subordinati di MPS, l'avete presa la decisione, perché nei prossimi giorni dovrete dire sì o no all'appello di convertire i vostri titoli in capitale di MPS. E guardate che se non lo fate, dice la banca, che poi non si trova il modo di completare l'aumento di capitale, e a quel punto succedono tutta una serie di cose. Allora, Raffaele Zenti, tra i fondatori del Baisoldi, responsabile del Financial Strategies Group, esperto di finanza e di gestione dei rischi, come la vede rispetto alle tipologie di titolo di cui stiamo parlando e ai rapporti di, chiamiamola, convenienza, che nella testa del risparmiatore, stiamo parlando non dell'investitore istituzionale, non stiamo parlando dei centinaia di milioni che ha generali di quei titoli, stiamo parlando della condizione del risparmiatore ordinario che adesso è chiamato a fare questa scelta all'inizio di una catena di cui non potrà sapere gli sviluppi e gli esiti, può solo fare delle supposizioni e su quelle però deve prendere una decisione. Raffaele, che diciamo a questo pubblico? Beh, innanzitutto buongiorno, diciamo, al pubblico. Sono domande che ci arrivano molto, molto spesso anche sul nostro blog, spesso poste in maniera semplicistica. Ho questo titolo, che cosa devo fare? E ovviamente non esiste lo Spirito Santo e tantomeno Baisoldi o Raffaele Zenti che sono in grado di dare una risposta netta, perché ci sono molte variabili. Alcune sono legate a... Innanzitutto vediamo, le scelte sono fondamentalmente tre: provare a vendere il titolo, cioè, perché comunque c'è un mercato in questi giorni piuttosto vivace, incassando probabilmente una perdita se si è comprato all'emissione, se l'emissione è stata, come spesso accade, alla pari o molto vicino alla pari, quindi intorno a 100, oppure, qui viene la parte più interessante, convertire o non convertire. Ma la conversione o non conversione, come si diceva prima, richiamando la teoria dei giochi, che non è un vezzo, noi non lo usiamo come vezzo intellettuale, la usiamo come, in maniera certo, molto semplice, come strumento di così, per fare un po', mettere a fuoco alcuni aspetti chiave. No, ma guarda, però preciso, noi prima eravamo ironici su chi pretende di insegnarcela su Twitter. Certo. Non, sì, non era esatto, una esatto, non, no, era. No, non no, è no, che sì, disconosciamo l'importanza. Ecco. Esatto. Ecco, diciamo, quindi da un lato dipende da quello che, dalla propria decisione rispetto a quella degli altri, e qui viene, può essere tirata in ballo, volendo, la teoria dei giochi, almeno brandelli di teoria dei giochi, perché non bisogna essere troppo pomposi, ma non bisogna dimenticare, lo dico subito, anche la propria situazione, perché è chiaro che se io sono un risparmiatore che ho un'esposizione subordinati di MPS pari allo 0,5% del mio patrimonio, quindi diciamo una quota piccola, posso affrontare questa situazione con una determinata serenità. Se il resto del patrimonio è investito in azioni, insomma, comunque ho un rischio elevato. Se è investito in qualche cosa di decisamente meno volatile e meno rischioso, sono più sereno. Ecco, quindi solo per dire che dipende molto anche dalla propria condizione di risparmiatore, quelle cose noiosissime che si dicono, il profilo di rischio, l'orizzonte temporale, certo, ebbene sono importanti in questo caso. Ciò detto, ecco, mettiamo a fuoco la situazione. Convertire o non convertire? Dipende da quello che fanno gli altri. Quindi gli altri risparmiatori potrebbero convertire, diciamo, in massa, dove in massa, secondo le stime più ottimistiche, stiamo parlando di, se non erro, si girano voci intorno al miliardo di euro, che sì, non è che risolva la situazione, ecco, no, questo diciamo subito, è semplicemente una condizione, una precondizione perché si possa andare avanti. Poi se gli altri convertono in massa e io converto, a questo punto mi ritrovo come azionista con davanti un futuro abbastanza incerto, diciamo, è iniziata bene questa strada, perché probabilmente il mercato apprenderà bene, bisogna anche vedere come andrà il referendum, però è iniziata bene, ma mi ritrovo come azionista, quindi con i rischi di un azionista che investe in un singolo titolo, quindi rischio idiosincratico, rischio legato a un singolo titolo, e per di più di una banca che ha, come diceva Mario Seminario prima, un piano strategico che possiamo quantomeno definire ambizioso, senz'altro incerto, e insomma bisogna avere lo stomaco per sopportare questo. Se invece non converto e gli altri convertono in massa, cosa succede? succede che posso sperare di fare del free riding, cioè sperare che tutti convertano, io sto lì fermo e poi se effettivamente le cose si risolvono, va avanti l'aumento di capitale, si trova il socio che ci mette i soldi e via dicendo, e tutto va, perlomeno va avanti, probabilmente io continuerò a essere trattato come obbligazionista, magari la scadenza del bond non è così, così lontana, e vengo rimborsato tranquillamente. E poi Raffaele, e quindi in diciamo questo caso, che... in questo caso, se gli altri convertono, mi converrebbe, probabilmente mi converrebbe, cioè dipende molto dalla versione a rischio, ma mi converrebbe non convertire. Cioè se fossi io, questo non è un consiglio, però dico, se fossi io proverei a non convertire, farei il cialtrone e proverei a non convertire. Se invece gli altri non convertono, cosa succede? Se mi trovo a convertire, beh, divento di nuovo un azionista, sono esposto al fuoco della prima linea, quindi probabilmente verrò falciato in qualche modo se si finisce, come è molto probabile, con un bail-in, perché se questa conversione non va bene, diciamo, è discutibile che è molto più difficile trovare un nuovo socio. Loro affermano, il management afferma che andrà a Francoforte a discutere con la vigilanza, però insomma le regole sono quelle, faccio fatica a pensare a qualche cosa che non sia il bail-in. Se invece non converto, quantomeno rimango col mio status di obbligazionista piccolo, e quindi posso sempre sperare che in caso di bail-in, che diciamo è uno scenario abbastanza, è un worst case ovviamente, in caso di bail-in Banca d'Italia, che si occuperebbe dell'operazione, decida come può in via discrezionale di salvaguardare determinate categorie. Quindi ecco, diciamo, dipende molto dalle probabilità con cui possono capitare queste cose, ma è evidente che egoisticamente un piccolo risparmiatore che è molto esposto a MPS probabilmente farebbe bene a stare fermo. Ma questo, questo vedi. Raffaele si trova con la stessa considerazione sulla quale abbiamo chiuso prima noi. Sono completamente d'accordo con te, Raffaele. Almeno questo è il modo in cui ho tentato di far riflettere i tanti che mi hanno scritto questa settimana, perché mi sembra ragionevole. Questa è cosa diversa dal fare azzardo morale. Il mio commento è azzardo morale. No, e hai perfettamente ragione, ma questa è anche la spiegazione pubblica dei dilemmi con cui ti trovi. Il giornalista, nel mio caso, a differenza di Vasoli, io non sono pagato per dare consulenze finanziarie, non le do, però molti ti scrivono e tu devi sforzarti di dare critiche di questo genere. Adesso andiamo al giornale radio e torniamo tra 10 minuti. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'inno è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta dallo studio della Fiera di Milano, dove è in corso la fiera nazionale, quella nazionale dei nostri grandi investitori su Radio 24, il nostro pubblico di elezione, quello degli agenti di commercio. Che siccome lavorano sabato mattina ci ascoltano sempre, che vanno in giro a lavorare, giustamente. E quell'Italia che autoscommette su se stessa e stenta molto di paga il 68% di aliquota fiscale. Lasciamo perdere che nella pausa, cari ascoltatori, ci siamo fatti i conti di quante tasse paghiamo quest'anno noi miserabili lavoratori autonomi allo Stato. Naturalmente per voi siamo invece, secondo la pubblicità ufficiale, gli evasori. Sì, vorrei farvi vedere a che aliquote arriviamo sul reddito lordo, sommando tutto, e avendo dei tetti di deducibilità dei costi oramai totalmente risibili, per essere chiari. Però, detto tutto questo, allora abbiamo alle nostre spalle mezz'ora in cui abbiamo parlato del problema per gli obbligazionisti subordinati di MPS, convertire o non convertire. Su questo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori cosa ne pensavano, e prima di andare al nuovo argomento, cioè il nuovo decreto fiscale, le novità per i lavoratori autonomi, il nuovo spesometro, ma come, l'elenco clienti fornitori doveva finire e invece adesso ce lo beccheremo 4 volte l'anno, dell'anno prossimo 2 volte ogni semestre, ma poi ogni trimestre, 2 miliardi di gettito in più dalle partite IVA, ma come, non dovevano scendere le tasse e invece il gettito sale, eccetera eccetera. Tutto questo lo vedremo tra poco con una volta. Poi sono tutte cose che si capiscono anche senza laurea, sì, e si paga molto di più, diciamo. Basta la semplice aritmetica. Basta saper far di conto, non servono le lauree lì. Però intanto ascoltiamo, prima di arrivare a questo secondo tema fiscale, alcuni di voi che ci rispondono alle domande che abbiamo posto, con Roberto da Trieste. Cominciamo con Roberto, che mi pare di capire che ha un subordinato MPS in pancia, Roberto? Esatto, sì. E penso anche di aderire alle offerte di conversione in questa situazione, perché la situazione è proprio quella del dilemma del prigioniero, cioè o si salvano tutti o non si salva nessuno. Però sono anche convinto che, come diceva mi sembra Seminario, ci sono delle possibilità reali di miglioramento della situazione, perché il piano industriale non prevede solo la conversione dei subordinati, ma anche grossi risparmi dal punto di vista dei costi, con riduzione del personale, con chiusura di sportelli, meno costi operativi e un obiettivo realizzabile da questo punto di vista. Quindi io ritengo sia fattibile. Quello che volevo però anche dire è che ritengo, scusatemi il termine, ma è vergognoso che la fondazione, che dovrebbe essere il baluardo della banca, ha visto che... dica aspettiamo l'esito del referendum. Allora questo mi sembra assurdo, cioè non ho parole per dire la mia sì. Lei ha ragione, diciamo che la fondazione probabilmente non è particolarmente in un ruolo di razionalità di vario tipo, non lo è più da moltissimo tempo, per cui io sicuramente forse non lo sono più da troppo poco tempo, dovevano essere fuori dai giochi da molto tempo addietro, così forse non saremmo arrivati in determinate situazioni, però ripeto, si deve dare fiducia al management attuale, anche perché non ci sono alternative. Sulla fondazione io stenderei un pietoso velo, anzi un pietoso teatro tenda, diciamo. Maria Rosa da Genova. Maria Rosa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo solo sapere qualcosa sulla Banca Popolare di Spoleto Crediti e Servizi. Siccome non se ne parla mai e io ho versato parecchi soldi da parecchio tempo, vorrei sapere se è possibile sapere qualcosa. Tic tac, tic tac. Chi è che estrae la famosa busca curta? Come si no, la busca curta, guarda che non capisco. Non lo capiscono, la pagliuzza è corta. Lo so. Qui, allora, Maria Rosa, a questa domanda la risposta sincera che dobbiamo dare dopo esserci guardati tutti intrecciandoci negli occhi è che quello che noi sappiamo risalente a qualche mese fa non è comunque ciò che ci autorizza a dare una risposta spacciandoci per esperti up to date. No, esatto. Quindi ogni tanto bisogna essere sinceri e dire grazie ascoltatori, perché rivelate che esistono poi dei giornalisti o degli esperti eccetera eccetera che di fronte a una domanda secca su un tema preferisco dire la verità, e cioè attualmente non sapremmo che cosa dirle. Esatto. Ecco, quindi siamo sinceri, e però mi scriva, nel senso che il mio indirizzo è molto semplice, o giannino@yahoo.com, io guardo e mi impegno a una risposta più documentata. Grazie Maria Rosa, perché rivela in diretta che non siamo dei disonesti. Umberto dalla provincia di Milano. Umberto. Sì, buongiorno. Sono un agente di commercio, oltre a un autore autonomo e un operatore finanziario, ma vi chiamo per un'altra cosa. Sì. Se mi permettete, una piccola in più su questa cosa delle obbligazioni. Ma la domanda non è convertire no, la domanda è ma perché cavolo le vanno comprate? Ogni giorno centinaia e migliaia di titoli obbligazionari emessi da società fantastiche in giro per il mondo, e perché mai uno deve mettersi in quei guai? No, però Umberto lo sa, cioè abbiamo spiegato in lungo e in largo che l'anomalia che tra tutti i paesi OCSE ci sia stata una percentuale così elevata sul totale del portafoglio delle famiglie come sul totale delle emissioni obbligazionarie italiane e di subordinati in pancia ai retailer, cioè ai risparmiatori ordinari, non a investitori istituzionali, non a imprese né piccole né medie eccetera, risparmiatori individuali o familiari, questo è dovuto al fatto che i regolatori hanno consentito per anni questo canale di funding che era dal punto di vista degli oneri preferenziale, costava meno rispetto agli investitori istituzionali, lo hanno fatto fottendosene del fatto di sapere che arrivava la BRRD in vigore e che poi scattava il principio del burden sharing, ed è stata una maniera collusiva tra vertici bancari, gli costava meno fare le sue subordinate in pancia alle famiglie, tra regolatori del sistema italiani, ignoranza crassa, ingiustificabile della politica, tanto per essere chiari, quando la cosa è scoppiata hanno dato la colpa ai tedeschi e all'Europa. Esatto. Sintesi diciamo estrema. Due numeri. 600 miliardi di obbligazioni vendute, l'89% degli italiani che non sa che cos'è un'obbligazione bancaria. Siamo questi sono i paradossi, cioè i più grandi investitori al mondo in obbligazioni bancarie, il popolo più ignorante sullo strumento su cui investito di più. Ma andiamo. Colpa della Germania. Sicuramente deve essere colpa della Germania. Che salva le quelli sue banche. Quelli dell'ABI che dicono che le regole sono colpa europee, quelli dell'ABI rappresentano fisicamente la collusione con i regolatori per piazzare le subordinate in pancia alle famiglie italiane. cacciatemi, ma lo ripeterò anche nell'ultimo buco della terra se volete cacciarmi, che è uno schifo vedere gente che ha la responsabilità di questo mentire sistematicamente su queste cose. È uno schifo, cari ascoltatori. Possono cacciarmi, ma non starò zitto. Poi arriva l'articolo 47 della Costituzione, no? Difesa del risparmio, e vissero tutti felici e contenti dopo averlo incenerito. Difesa schierata 4 con un libero centrale. Con un libero, sì, sì, esatto. Non so che vi imbarazzo, ma non vi preoccupate, me la prendo io. No, no, figurati, Oscar. No, ma io non sono in imbarazzo, di quello che parlo, guarda, di quello che dico. Figurati se io mi metto in imbarazzo per considerazioni così, allora, diciamo, scontate. Allora, scontate, beh, in Italia... Asconto, asconto, no, no, intese come asconto, diciamo. In Italia, certo. Allora ragazzi, adesso noi abbiamo un minuto di pausa, ma poi abbiamo con noi il professore di diritto tributario Dario Stevanato, che intanto saluto e ringrazio, è con noi già collegato, vero professore? No, buongiorno, eccomi. Professore, adesso le tocca, dopo il minuto di pausa, spiegare agli italiani, perché se lo faccio io dicono naturalmente che non ho capito un cazzo, come sempre, quali novità positive e negative col decreto fiscale sono in arrivo. È vero che la nuova Equitalia è la scomparsa e la morte di Equitalia, che non ha più gli artigli potenti, che è meno potente di prima nel sapere i dati per aggredirci patrimonialmente, è vero o è falso? Punto numero uno. Punto numero due, è vero o meno che le nuove comunicazioni trimestrali dello spesometro sono una semplificazione antifisco? E mi scoppia da ridere, però gliele faccio già da adesso le domande, perché tra un minuto allieterà su questo. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati qui dalla Fiera di Milano, la vecchia Fiera di Milano, però con la Fiera Nazionale degli Agenti di Commercio, agenti.it, che sono fedelissimi nostro come pubblico e come anche investitore, ringraziamo, di Radio 24, e siamo a un punto che interessa anche loro direttamente per il tipo di profilo che hanno e di scommessa sulla propria professionalità che hanno. E la questione è questa: col nuovo decreto fiscale che è stato approvato in Parlamento e che costituisce il pilastro, insomma, tributario poi della manovra pluriennale della legge di bilancio 2017, molte sono le novità, e tentiamo adesso di capire e spiegare se la maniera in cui viene presentato il decreto, cioè una grande semplificazione, favorevole al contribuente, fisco amico, è morto Equitalia, eccetera, eccetera, abbia fondamento oppure no. È con noi il professor Dario Stevanato, quindi un regolare accademico, sia diritto tributario a Trieste, non è il cretino Giannino che non ci capisce niente e che qualcuno dice che sbaglia sempre perché fa su questo propaganda filo evasore. E io inizio a chiedergli: professor Stevanato, letto il decreto, e con equilibrio e competenza, è morta Equitalia come viene ripetuto e annunciato dalla politica? No, ovviamente Equitalia non è morta, se non sul piano meramente formale. Il l'ente della riscossione viene trasformato da società per azioni, diventa ente pubblico economico, e la cosa che l'osservazione che farei è completamente diversa percezione che si è avuto rispetto agli annunci fatti dal Presidente del Consiglio con riguardo all'obiettivo. Io ricordo, ma non penso di essere l'unico, frasi del tipo Equitalia non c'è più, cucù Equitalia non c'è più, o aboliremo Equitalia, il che faceva pensare a una volontà indicava ai cittadini e ai contribuenti la volontà del governo di togliere pressione sulla riscossione, il che poi giusto o sbagliato che sia questo è un tema a parte. Però se andiamo a vedere invece le norme per quello che dicono, e al di là delle modalità un po' anomale con cui questa operazione di trasformazione dell'ente avviene, su cui forse non vale nemmeno la pena più di soffermarsi, perché c'è una estinzione dell'ente, la nascita di un nuovo ente che eredita tutti i rapporti, non si capisce bene come se ci fosse un trasferimento dell'azienda che in realtà non c'è. Ma comunque, detto questo, il legislatore fa quello che vuole nella sua onnipotenza, e questo nuovo ente viene potenziato, perché finisce viene potenziato, cari ascoltatori, viene potenziato. Ma c'è un articolo 3, l'articolo 3 del decreto è titolato potenziamento della riscossione, eh già. Lì è cioè pur non variando le norme che presiedono alla riscossione stessa, non c'è dubbio che il maggior avvicinamento dell'ente all'Agenzia delle Entrate diventa un suo ente strumentale. Il fatto che questo, come espressamente dice la legge, possa dal 2017 in poi accedere a rapporti, a informazioni, a banche dati di cui prima non aveva disponibilità diretta, indubbiamente porterà ad una maggiore efficacia in teoria della riscossione, che di per sé potrebbe non essere necessariamente un male. Basta annunciarlo per com'è, però, non dire ecco, l'annuncio è ben diverso dal contenuto della norma. Adesso non lo so se cioè, è un classico caso di eterogenesi dei fini o se diciamo chi ha scritto le norme non ha tenuto conto dell'indicazione politica, ma di fatto che il decreto dice questa cosa. Altro tema su cui è scattato una certa polemica, campagna polemica con, basta guardare sui social ci sono degli attivisti a difesa 24 ore del governo e dei suoi esponenti che sono stati incaricati di fare fuoco di interdizione sui social perché viene presentata l'operazione rottamazione cartea dicendo gli interessi, i superaggi che poi non esistono. No, ma insomma, per dire, questi sono gli argomenti usati, sono aboliti per sempre. La mia opinione è che basta una lettura del decreto nella parte relativa alla rottamazione dei ruoli per fare capire che solo per la rottamazione, quindi con pagamento a 5 rate, ma solo in quella finestra temporale, non si pagano alcune componenti. L'aggio resta, tanto per essere chiari, quindi chiunque lo ripeta sta dicendo cose che o non conosce il decreto oppure no. Per l'aggio nel decreto fiscale si rimanda a un futuro provvedimento in cui si stabiliranno le future tecnicalità dell'aggio, perché ci sono sentenze che dicono che l'aggio non deve pagarlo il contribuente Equitalia, ma lo deve pagare l'ente committente per conto del quale Equitalia fa riscossione. Però, professore, com'è che viene presentata una, diciamo così, sgravio temporale per far cassa, come se fosse invece un abbattimento ordinatorio che deriva dalla convinzione che veramente il regime di interesse, more, sanzioni e aggi sia di tipo predatorio? È vero che bisogna aspettarsi che ciò che non si paga nella rottamazione sia già per sempre poi nell'ordinamento? No, questo mi sfugge, non ho intrecciato esatto. Alcuna norma, ma nemmeno di tipo programmatico che intervenga in futuro su sanzioni o sull'aggio o sugli interessi. È un Quindi è corretto, sostenere, che al di là degli sgravi che non riguardano l'aggio, che resta, ripeto, certo. Ecco, che riguardano invece le sanzioni e gli interessi di mora, che sono per la rottamazione, ma sono solo per i tempi della rottamazione. Niente ma non è detto. Alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio, dice il professor Stevanato, perché qui c'è tutta una tribù di sostenitori di Zanetti invece che mi ha insultato per tutta la settimana dicendo che io non conosco il decreto. Non c'è alcun dubbio e mi dispiace dirvelo, cari sostenitori di membri del governo, mentite per la gola, perché siccome svolgete professioni elevate e degne, dire a chi vi segue che è finito per sempre l'aggio è una menzogna, è chiaro? E stavolta io che uso con una certa una narrativa, calma diciamo, questi termini, devo dire che sono veramente sfinito di dover condurre queste battaglie. Comunque, però posso chiedere una cosa a Dario? Viene modificato con questo quel distorsivo sistema di incentivi che invece porta l'Agenzia delle Entrate a trattare i contribuenti con l'obiettivo di massimizzare l'accertamento e quindi l'eventuale riscossione immediata. Cioè, questa riforma va a toccare il meccanismo profondo dell'accertamento fiscale, Dario, vogliamo chiarirlo? No, non va a toccare il meccanismo dell'accertamento, anzi io allargando un attimo l'angolo visuale direi che questo provvedimento sulla transitorio sulla rottamazione delle cartelle rischia di incentivare ancor più un fenomeno sempre più preoccupante, ovvero il fenomeno che poi porta da un lato ad avere cifre record nella riscossione da cosiddetto accertamenti e controlli. Se poi in realtà si va a vedere in queste cifre record l'attività di accertamento sta segnando il passo da ormai da alcuni anni, cioè gli accertamenti sono sempre di meno, i controlli sostanziali sono sempre di meno, quello che aumenta è la riscossione di imposte che i contribuenti dichiarano ma non versano, contando di autofinanziarsi a spese dello Stato oppure addirittura di rendersi insolventi. Ora, un provvedimento che dice guardate tutti voi che non avete versato le imposte ci mettiamo una pietra sopra, versatele senza alcun interesse e sanzioni, mi sembra possa indurre qualcuno, potrà indurre qualcuno a continuare in questo tipo di comportamenti. Quindi su questo secondo me starei molto attento agli effetti nel lungo termine di quello che è un condono come questo. E quell'imposta speciale dei 100.000 euro per gli impatriati. Gli impatriati, di cui tu stesso, esatto. È un segnale che anche lì andiamo verso una situazione un po' schizofrenica. Lì c'è qualcosa che spieghiamo di chi, perché è in ascolto e qui in studio, di che si tratta, perché o segue le cose tributarie oppure non sta capendo. Con il decreto fiscale che tipo di intervento si fa, su quale soggetto, professor Stevanato? Dunque, il tema degli impatriati, dei 100.000 euro, in realtà non è nel decreto ma è nella legge, esatto, di stabilità. È una norma che prevede che se un soggetto, uno straniero, un non residente, trasferisce e mantiene per un certo periodo la residenza fiscale in Italia, potrà pagare una sorta di ticket fisso di 100.000 euro a prescindere dai redditi prodotti all'estero posseduti. Però francamente non capisco, cioè, da un lato è un ennesimo colpo inferto alla sistematicità dell'IRPEF. L'IRPEF è sempre più frammentaria, le ultime norme introdotte sono l'esenzione per gli agricoltori e anche questa norma, che ovviamente introduce una disparità di trattamento rispetto a chi, certo, già è in Italia e ha redditi di fonte estera. Quindi su questo aspetto mi pare una norma negativa, che però oltretutto non vedo come potrà funzionare, perché chi ha redditi, bravo, di fonte estera continuerà a pagare le imposte all'estero. Invece io, certo, vedo un rischio, e cioè il fatto che se si metta d'accordo con qualcuno, lo si faccia venire qui o si trovi qualcuno che è venuto qui, certo, e gli si intestino dei beni o dei redditi di fonte estera, pagati i primi 100.000 avremo milioni esentaste. Un comportamento evolutivo da manuale, esatto, cui non capisco come diciamo chi sta in commissione bilancio non abbia pensato. Però perché questo, secondo lei, lo Stato, dopo aver annunciato più volte ripensamenti negli anni, a seguito anche di tutta la giurisprudenza che sappiamo, diamo per scontata, però non entriamo nella giurisprudenza accumulata sul tema, vecchio elenco clienti fornitori, poi è diventato spesometro, per capirci, secondo lei perché adesso ce l'ho rimpanneggiato da lotta all'elusione, ce lo ritroviamo reintrodotto per il 2017, sarà due volte l'anno, quindi obblighi di comunicazione ogni sei mesi, dal 2018 ogni tre mesi, secondo lei perché? Mi sembra che lì si vada in un ambito in cui il governo sta andando a zig zag, cioè c'è il problema che segnala anche la Corte dei Conti, ma insomma è da anni che lo segnaliamo, della diffusa microevasione che infesta l'economia italiana. Le ragioni sono tante, ma adesso c'è indubbiamente un'evasione di massa di piccoli importi da parte di tantissimi soggetti. Ora, da un lato si smantellano gli studi di settore, che dall'altro non funzionavano più, perché accertamenti non se ne facevano quasi più. E dall'altro il governo cerca di un provvedimento estemporaneo. Uno è quello della lotteria sugli scontrini, un altro è aumentare ancor più le comunicazioni di fatture e di liquidazioni mensili o trimestrali dei soggetti IVA, per dare una base dati ancor più ampia a un'agenzia che però è semi-paralizzata. Cioè, da un lato si costringeranno i professionisti, i commercialisti a fornire dei dati con aggravio di lavoro, e questo non, esatto, c'è dubbio. Dall'altro però questa base dati, io ho grossi dubbi che l'agenzia riesca a lavorarli. A lavorarli. Tenete conto che nel decreto, questa volta nel decreto, c'è anche la proroga naturalmente degli attuali poco più di 300 residui dopo i tanti decaduti che restano come dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle Entrate, perché notoriamente, e questa è una delle spiegazioni sostanziali, organiche, anche alla paralisi vera che c'è dell'Agenzia delle Entrate, che deve preoccuparci, qualunque cosa si pensi dell'ordinamento tributario, e il tema appena toccato dal professor Stevanato, e nel decreto attualmente si dispone la proroga di questi dirigenti. Sapete tutti che lì c'è un problema risolto da anni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale su come si reclutano, dovrebbe essere per concorso, i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Però la paralisi c'è, vero professor Stevanato? Paralisi forse è un termine eccessivo, c'è indubbiamente, uso le parole dei magistrati contabili, c'è un depotenziamento progressivo nell'attività di controllo e accertamento. La Corte dei Conti lo spiega con una diminuzione del personale, esatto, e con evidentemente le fibrillazioni interne e la demotivazione che anch'io ho riscontrato personalmente in molti, sì, casi, in tutti conosciamo che molti funzionari non conoscono più la loro sorte. Allora, io nel ringraziare il professor Della Stavanato, vi ricordo, cari ascoltatori, di un'ultima diffida intellettuale che vi faccio. Tutte le volte che sentite, sia esso il Presidente del Consiglio, sia esso l'autorevolissimo, augustissimo, illuminatissimo Ministro Padoan al MEF, tutte le volte che sentite dire da esponenti del Governo che le cifre da incassi, da lotta all'evasione, hanno toccato un record nel 2015 con questo Governo arrivando a 14,8 miliardi, vi invito a leggere il resoconto sul rendiconto generale del 2015 della Corte dei Conti, quindi non Oscar Giannino coglione senza titoli, ma la Corte dei Conti, che dice che, due punti, non è vero! Chiaro? Ve lo devo ripetere più forte? Non è vero! Non è vero. Perché da quei 14,8 miliardi bisogna levare le cifre che si devono invece a liquidazione di imposte precedenti, che con la lotta all'evasione non c'entrano un cazzo, chiaro? Ecco, non c'entrano niente e siamo già a 7,3 miliardi. Quello che resta sono gli incassi da accertato, da lotta all'evasione, da possono essere accertamenti sostanziali o documentali. Se volete, cari professori in cattedra che credete di tacermi, venite qua e ne parliamo. Ecco, questa cifra nel 2015 è scesa. Sapete cosa vuol dire scendere in italiano? Calare. Non è salita, nessun record del cazzo. È scesa, caro governo, caro ministro Padoan, presidente del Consiglio o chiunque sia, come ti chiami, la Corte dei Conti, non Giannino, dice che non è vero quello che ripetete, perché l'incasso è diminuito e la Corte dei Conti nel paragrafo successivo spiega infatti quello che ha appena detto il professor Dario Stevanato, che si deve al depotenziamento dell'Agenzia delle Entrate. È così, e chi dice il contrario delle due l'una, e lo capisco, non lo sa e si fida di quello che dice il governo, oppure, cari ascoltatori, mente lui per la gola, non io, lui, è chiaro? Corte dei Conti, io l'ho già pubblicato il link al rapporto della Corte dei Conti, molto interessante. E guarda caso, chi mi invita a stare zitto, quando arrivano le fonti ufficiali, sta zitto lui che mi cacci Radio 24. Difendo il diritto dei giornalisti di dire ai politici quando mentono che mentono loro. Però io lo dico su base documentale. Loro dicono invece che io devo stare zitto e basta. Ha, ha, ha. Ci sentiamo tra un minuto. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. E con la nostra consueta sigletta della rubrica settimanale che dedichiamo a degli scambi di battute, di opinioni che segnano un pochino un momento importante della comunicazione pubblica o delle imprese, della banca e della finanza, ma che vogliamo sottolineare prendendola da parte, estrapolandola dall'esterno per farvi capire che secondo noi sono importanti. Ecco, decidiamo questa settimana di interrogarci. C'è caro Alberto Canavale. Sì, perfettamente da 8:30. Abbiamo appena trasmesso in radio una pubblicità di un'obbligazione che per la prima volta ho sentito celebra il fatto di non essere soggetta al bail-in. Io penso che abbiamo dato un grande contributo alla civiltà finanziaria di questo paese, perché siamo stati tra i primi a parlare esplicitamente di questa cosa, e oggi il bail-in è come l'olio di palma. Però esatto. Tra un po' usciranno non le soggetta, senza olio di palma. Secondo me però un po' di olio di palma per prepararsi al bail-in potrebbe essere utile. Per applicato, diciamo, applicato in, in... Okay. Caro editore, io lo so che mi capisci che io sono un giornalista e loro no, e non sanno che stanno violando una cosa fondamentale. Non si commentano gli spot. Ragazzi, non si commentano. Sì, no, io sto incrociando lo sguardo, sto pregando in ginocchio, sto guardando la nostra delegata addetta del marketing che mi sta uccidendo con lo sguardo seduta nell'ultima. No, ma dice di no. Ma come dice di no? È ovvio. No, io non l'ho citato. Ma il boia non dice mai devi morire. No, Ti taglia la testa, è ovvio. No, non è vero. No, non c'è c'entro niente con quello che ha detto. Invece è un segnale di costume. No, ma cari inserzionisti, accorrete numerosi. Accorrete numerosi. Quello che vi garantiamo è che vi diamo pelo e contropelo. No, non è vero. No, allora, comunque, torniamo al punto. Elena, ti prego, io non c'entro. Ricordati degli amici. Non fare così, ha due figli. Allora, pensa a quello. Detto questo, allora, sentite, no, lo scambio di questa settimana è relativo, tanto per cambiare, Italia-Germania con 4-3, no, con, no, 4-3 quello, l'illusione nostra che sia sempre la partita del Messico 70, no, è relativa a quei paesi a cui bisogna riservare i controlli sui bilanci, perché sapete che su questo c'è stato uno scambio, diciamo così, tra Schäuble da una parte e Renzi dall'altra, e Renzi ha detto, perché Schäuble ha detto, ma come, la Commissione Europea dice a noi altri paesi, e Renzi ha detto no, proprio a voi, per via del vostro avanzo sul posto di bilancio, su cui vi rinvio a una dettagliata nota in cui per l'ennesima volta mi riconosco dalla prima all'ultima parola sul blog di Mario Seminerio, fastidio.net, uscita ieri, in cui si spiega tutto quello che c'è da sapere. Che si intitola Piove Germania Ladra. Piove Germania Ladra. Però su questo, il nostro appuntamento settimanale con Udo Gump, giornalista e corrispondente dall'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Grazie di essere con noi, Udo. E la domanda che ti faccio prima di cosa ne pensi tu, ma in Germania sui giornali popolari, sui giornali di segmento più elevato, fino alla Faz, eccetera eccetera, di queste cose che finiscono sui giornali italiani con titoli e apertura di pagina, si trova traccia, Udo, o non frega niente a nessuno? Non si trova nessuna traccia, perché i giornali, anche la Bildzeitung, che è un tabloid popolare, però normalmente è molto aderente ai fatti. Non lo si può prendere come, cioè, è una battuta di Renzi rivolta al suo pubblico italiano, e anche gli analisti italiani sanno benissimo che lui ha torto marcio in tutta questa polemica rispetto al surplus commerciale. Uno, il surplus commerciale non viene generato da aziende di Stato e che lui potrebbe decidere, no? Viene generato da aziende private, dunque le private aziende l'Italia decidono per conto loro. Poi i fatti sono completamente diversi: da sei trimestri la Germania diminuisce continuamente i suoi export e aumenta l'import. Esatto. Giusto quello che l'Italia chiede di fare. Esatto. Questo addirittura significa che rispetto al PIL tedesco l'export, il famoso, la bilancia commerciale, porta un apporto negativo del 0,2-0,3% ogni anno. Esatto. E allora da che cosa si spinge la locomotiva tedesca? Da Schäuble, perché le spese pubbliche, gli investimenti sono talmente aumentati, stiamo parlando del 3-4%, e hanno aumentato le pensioni quest'anno, pensate, le pensioni sono aumentate del 5%. Ma vi rendete conto del 5% in un solo anno? E hanno aumentato le spese, soprattutto anche il consumo privato, che però lo Stato spende molto di più. E poi volete sapere qual è una delle cause di questa maggiore spesa dello Stato? Sono quei milioni di profughi che si sono trasformati in 300, che si sono trasformati in circa 30.000 nuove assunzioni stabili presso naturalmente le scuole pubbliche. Poi abbiamo tutta la serie di persone che devono accudire mafia capitale, te lo sogni, perché là ogni spesa viene rendicontato e anche poi fatturato, che aumenta nuovamente il PIL. Dunque chi dice queste cose come Renzi veramente un ignorante. Allora o lo sa o non lo sa meglio, ma credo che intorno a lui ci siano i consiglieri. Allora, ma a sto punto Renzi parla esclusivamente al pubblico italiano, Udo, e lui spera che sia ignara di questi fatti. Allora, no? Però io ti devo chiedere una cosa. Se come noi sappiamo, ma a saperlo siamo in pochi, dai, a seguire bene i dati lo sai che siamo in pochi, se da sei trimestri la Germania in maniera incontestabile fa esattamente quello che gli contesta chi dice che la Germania non sta facendo, cioè importa più che esportare, uno, due, spende di più, alza i redditi, questo genera più consumo interno, ha il bilancio in pareggio. Allora, detto tutto questo, perché continua a essere ripetuto da autorevolissime persone nella comunicazione italiana senza repliche il fatto che invece la Germania sta facendo l'opposto? Non è che c'è un problema di comunicazione infatti, di Deutschland e Ghe in Italia, perché Udo, non si dà da fare abbastanza? Infatti devo farti una critica, cioè non state spiegando bene il modello Germania a noi italiani, e va a finire che ci resta credere a Renzi. Non è che dovete fare un po' di autocritica su questo? C'è una cosa molto importante: tutto questo, l'aumento della spesa importazioni maggiori, sempre maggiori. Questo succede in un quadro dove lo Stato fa sempre il suo nero, cioè, ovvero non si indebita più da diversi anni la Germania. E allora che cos'è che funziona meglio? Forse la spesa non è solo più efficace, ma è anche una spesa efficiente, viene investito in quei posti là dove si deve investire. Mettiamo anche un piccolo esempio che conosco bene, il fondo universitario di tutte le università italiane che hanno disposizione per la libera decisione su progetti di ricerca sono 94 milioni di euro, te l'avevo già detto una volta, meno del costo dell'Higuain, mentre la Germania nello stesso fondo mette 3 miliardi all'anno. 3 miliardi, cari ascoltatori. E queste sono le cifre dell'anno scorso, perciò se tu non investi nelle cose giuste, se tu investi nelle cordate di mafia, nei bonus, nelle cordate, e purtroppo anche la Consulta che adesso ha bocciato in pratica la riforma Madia, che a me sembrava una cosa veramente necessaria, troppo poco ancora, mantiene le società inutili, perché noi sappiamo che il marcio sta spesso nelle regioni italiane, no? Là dove si sono formate le cordate, mantengono nei comuni che mantengono delle società completamente inutili, carrozzoni, ogni sindaco a Roma assume immediatamente 1000 persone, ancora là. La nostra sindaca non l'ha fatta perché ha assunto meno persone, però sempre per chiamata diretta. Voglio dire, questo è il sistema, no? E allora è chiaro che questo sistema non può funzionare, e anche se tu metti le stesse 1000 euro in mano qui ad un funzionario, evidentemente 500 finiscono agli amici degli amici. Allora, io ti devo fermare perché sennò è tristissimo, appunto. Non generalizziamo, però i caratteri fondamentali di minor efficienza ed efficacia della spesa pubblica a parità di dotazione di capitale pubblico sono evidenti paragonando i due paesi. Però il marketing della Repubblica Federale Tedesca è pessimo, è pessimo, dovrebbe invece investire un pochino di più nella comprensione. Il problema è che noi abbiamo fior di tuoi colleghi cattedratici, caro Carlo Alberto, che continua a scrivere sui giornali il contrario. Fior di tuoi colleghi cattedratici che dicono che noi in realtà facciamo meglio di loro, e sei del mondo con le sue statistiche che non ci capisce. Produciamo ogni mese un indicatore nuovo e diverso secondo il quale l'Italia va meglio di loro. Come perdonami, carciofi. Sai, noi che non siamo laureati vediamo queste cose e non vi capiamo, perché certo noi siamo pieni di fiducia verso l'Olimpo a cui vi fanno accedere con una cattedra, però detto questo noi miserabili dal basso pensiamo invece che abbia ragione Udo Gumpel, sai com'è? E io quando poi ogni 16 del mese c'è la scadenza fiscale, vorrei pagare in Germania le tasse, sarei molto più felice e sarei anche molto più fiero di ospitare tanta gente che in Italia viene usata come scusa, non ospitiamo loro per dire che sono loro che ci devono le risorse per fare le cose giuste, no, le risorse noi le abbiamo più elevate sul PIL di loro e facciamo schifezze in paragone, io la penso così. Un'altra buona ragione, caro direttore, per cacciarmi, sono fuori linea anche su questo, visto quello che leggo sul quotidiano, sono fuori linea anche su questo, ma sono proprio fuori linea, sono un pazzo, che ci volete fare? Grazie Udo Ump, o Udo intanto, e torniamo tra un minuto con il nostro Renato Cifarelli. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci tornati rapidissimamente in linea, Mario da Milano, le do tempo 15 secondi per una domanda shock. Ce l'ha la domanda shock, Mario? Sì, perché la Banca Popolare di Milano sta andando male in borsa? Adesso che hanno deciso la fusione, viene considerato male questo progetto di fusione con Banca Popolare? Caro Mario, risposta shock di zero titoli, perché il mercato sconta il fatto che probabilmente non sappiamo tutto quello che c'è da sapere sui crediti deteriorati di Banca Popolare, che sono forse maggiori di quelli che abbiamo immaginato, e scontano l'ipotesi che possa arrivare una nuova richiesta di aumento di capitale. Sbaglio, compari, d'accordo? Sì, di correzione a Milano. bilancio in seguito alla verifica della BCE. Purtroppo, questo è quanto, e questo è il motivo per il quale... E quindi sarà colpa della BCE, abbiamo trovato già la causa. No, non è colpa della BCE, ma è colpa, come solito, della catena collusiva che non fa emergere tutto quello che c'è da far emergere nei conti e fa deliberare magari non al pieno delle informazioni. Gli stessi organi societari, si è letto qualche articolo nell'ultima settimana, Claudio Gatti su Sole 24 Ore, ha visto qual è anche un'altra delle ragioni per cui il titolo ne ha risentito. Renato, ti abbraccio. Renato, come stai? Renato Cifarelli. Io bene, buongiorno, voi come state? Noi siete, siamo, ma no, oggi questo... Mi sento fieri in fiera. Esatto. No, io oggi ho, come al solito, lordato i miei autorevoli colleghi con alcune tirate di quelle, sai, io sono un pazzo come noi. Ma oramai ho deciso che farò sempre di più, così vediamo. Senti, ho due cose carine da raccontarvi settimana. Allora, la prima è una notizia bomba per i sovranisti. Per i sovranisti, quelli belli carichi. Allora, vendono le sedi della Banca d'Italia. Allora, no. Il mio suggerimento è questo: voi comprate una sede della Banca d'Italia, ci mettete dentro una bella stampante e via. e via a produrre. Tanto uno, lasciate l'insegna, uno va lì e si approvvigiona la sua bella liretta alla Banca d'Italia ed è a posto. Esatto. Ma guarda che io sono sicuro che alcuni seguaci di alcune sette di guru che ripetono con mesure del Corano ovviamente i detti del profeta, io credo che loro faranno sicuramente una colletta per comprarle e fare quello che dice. No, l'hai buttata come battuta. Parlando di cose seriamente allora ieri abbiamo avuto il Black Friday, perché adesso ormai importiamo qualsiasi cosa dall'America. A Roma il Black Friday è tutti i venerdì sciopero dell'ATAC, però in Italia e nel mondo significa un'altra cosa. Però l'ATAC è un patrimonio dei romani e delle romane, allora, sia ben chiaro. Vai, allora ieri Black Friday. Allora, la cosa che leggevo in questi giorni è che la Comunità Europea si sta occupando di IVA sull'e-commerce. Sì. Che è una cosa che è basilare, naturalmente come al solito tutto quello che è Comunità Europea in Italia non ce ne occupiamo perché tanto noi... E cosa ne può derivare? Sono cattivi. Ne può derivare che è una cosa fondamentale per quanto riguarda la competizione delle piccole e medie imprese che vogliono cominciare a fare e-commerce e anche nei confronti della Cina, perché non dimentichiamoci che abbiamo il grande concorrente Alibaba che vende tutte le cose. Sì. Quindi la nostra promessa, Renato, è che ce ne dobbiamo occupare con attenzione e profondità e non solo in questi due ultimi minuti. Io ti abbraccio, so che stai lavorando, ti invidio come sempre, come invidio i miei autorevolissimi colleghi, ma devo dire, cari ascoltatori, speriamo di avervi allietato anche questo sabato. Un abbraccio a tutti gli agenti di commercio. Ciao. Continuate su Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Milano, lunedì mattina alle 8:20, rattenti a noi due.